Ho già pagato, quindi cosa dovrebbe fare lui? Cioè mi dovrebbe dare i soldi, ma cosa bisogna fare? Devi chiedergli il reso. Il reso di chi dici no, guarda, a me è una cosa che non, diciamo, è un prodotto che non. Gli dici è un prodotto che non, che non soddisfa le tue esigenze, che lo conosci, è un prodotto che a te non va bene. E farti il reso dei soldi, capito? Dici questa cosa qua proprio. È un prodotto che a me che non soddisfa le mie esigenze. E vedo di trovarlo da un'altra parte e di farti cortesemente di renderti i soldi. Aspetta. E se ti dice guarda che buono, guarda è un prodotto di ottima qualità, dici no, voglio quello e se non hai disponibilità del prodotto che ti ho richiesto, ti chiedo gentilmente di rimborsarmi la somma che ti ho pagato. Sì, tanto loro una volta che prendono i soldi poi li possono ristornare, giusto? Ma stai scherzando, è per legge. Legge, c'è il rimborso. Se loro non hanno il prodotto che tu gli richiedi, ti devono restituire la somma che tu hai pagato, capito? Aspetta che lo scrivo, nel caso mi rimborsa la somma. Sì, nel caso mi rimborsa la somma per la quale che le ho inviato per quella qualità di prodotto che richiedo io. Mettigli tra parentesi che è un periodo che sono nervoso, quindi non insistere. No, e lì dopo c'è la denuncia. Ma l'ho scritto che ho già pagato, il suo prodotto non mi interessa. Nel caso mi rimborsa la somma e vedrò di acquistarlo da altre parti. Esatto. Dice, dovevi scrivere che la qualità del prodotto che ti proponeva lui non soddisfava le tue esigenze, capito? Sii diplomatico in queste cose, sii diplomatico. Sì, non mi soddisfa. Sappi che ho PRM spento perché c'è un disturbo. Ok, grazie lo stesso. Adesso vi domando e vediamo cosa mi risponde. Perché queste cose qua non si trovano più neanche a Sassari. Cosa vuol dire non si trovano più neanche a Sassari? Una sorta di olio per i capelli, no, che si usava tanti anni fa. E mio padre è innamorato di questa brillantina Linetti. Dice che qua non la trova più e quindi la sto ordinando da internet. Non devi provare l'acqua e sapone, da sapore e profumi. Io, tu pensa che stavo uscendo di testa perché abbiamo finito anche che, diciamo, a lavoro l'alcol l'isopropilico per pulirmi i contatti, le saldature, queste cose qua, è un alcol molto buono che si usa per fare questa roba qua. E non si trova più, io lo compravo in farmacia, ce l'avevano in farmacia, in negozi di autoricambi, non lo sta più portando nessuno. Adesso ne ho preso uno da Amazon sperando che arriva. Oh, la storia di quei naselli mi ha fatto fare il rimborso, non è andata a buon fine. Quello era Shane, si è fatto fare il rimborso perché non erano, però di lì vedi che loro sono onesti, che il prodotto da lei ordinato non è, in pratica non era un asili di microfono normale, capito? E quindi adesso mi ho ordinato da Amazon questo l'alcol isopropilico. E su Amazon non c'è questa brillantina. Oh, a tempo di fulmine mi ha risposto, mi ha scritto arriverà il rimborso. E scrivo, grazie mille, sarà per la prossima. Sì, a questa cosa qua gli dici grazie per la sua tempestività, però perché poi questi qui sono, vedi che sono in gamba, perché a me ti avrebbe risposto domani o quando avrebbe voluto lui. Io lo scrivo, grazie per la sua tempestività nella risposta, e la contatterò sicuramente per qualche altro prodotto se lo avrà disponibile. No, sei più diplomatico. Felicirì, grazie mille, sarà per la prossima, ok? Lo so, io per queste cose qua, poi però a loro li risulta la mail, e se possono aiutarti ti aiutano, eh? Almeno io ho avuto queste esperienze qua. Sì, l'importante è che insomma non vai a perderli, capito? L'importante è che non vai a perderli. Va bene. Beh, com'è la tua giornata? A perderli non vai a perderli, sì, perché c'hai delle mail di riferimento, c'è un ordine, non è che stai comprando in Papuasia, stai comprando da... loro non si sporcano per 30 euro, ma stai scherzando, oggi non è che sono... non è più come prima che si fanno per 30, per 50 euro, ma neanche per 100 euro. La mia giornata oggi, stamattina, ho fatto un po' di roba e poi... allora di pranzo era a casa, e stasera sono andato a fare questa roba del, diciamo, commissione al CAF, e poi ero a casa, mi sono seduto, sono arrivate loro, mi sono seduto nel divano e mi sono detto, canto gariginato, boh, non ho capito il motivo, comunque mi ho fatto un pisolino fino alle 8, fino alle 7 e mezzo, proprio a fondo, hai visto. Io invece nulla. No, oggi ho lavorato bene, nonostante tutto, insomma, si sperava, io no, però gli altri speravano in una pioggia sequenzale, di quelle proprio da brivido, e invece no. Ma è meglio così, dai. Di quelle piogge torrenziali ai livelli della savana. No, mi ha dato più gelina, ha fatto qualche goccia anche a Sassari, ha fatto, ma niente di particolare. Ma qua queste sciroccate non toccano, Mitti. Cioè, per esempio, se tu vai a Pratamona c'è il mare in burrasca, c'è mare grosso, lo sai come funziona? Che con lo scirocco, tramite le bocche di Bonifacio, prende qua e entra come levante. Ma a noi lo scirocco a noi ci rompe le scatole d'estate, perché un vento umido, un vento schifoso e ti porta a sudare. Tant'è vero che fuori non c'è freddo, cioè si sta bene, io sono in maglietta maniche corte qua, e fuori sono uscito in magliettina, non c'è freddo, perché c'è un po' di umidità, poi è vento caldo, e quella poca pioggia che ha fatto, ha fatto fanghiglia. A noi che ci dobbiamo preoccupare quando entrerà il Greccale o la Tramontana, quello è il vento che fa danni nella nostra zona, perché ci prende dritto. E quando tira la Tramontana è fredda, è pungente ed è pure forte. Vabbè. Sin poi non faccio danno, perché sai, questi venti qua poi la cosa che crea noi è danno alle antenne. E quindi ti vai di nuovo a lavorarci sopra. Comunque sentite quello che hanno sparato oggi. Sì, l'ho sentito. È dietro la Lidl. Beh, dove ho la macchina io di fronte, dai, dove c'era l'uso un tempo, più avanti. Sì, l'ho visto, sì. Boh, non lo so, sarà nevati sicuramente. Qualche conti sospeso che dovevamo risolvere. Saranno insomma nei vaccinati. Certo. Vabbè, però sai, sempre c'è sempre l'aria aperta. Può passare chiunque, ci piange chi magari non c'entra niente, capito? E quello ti do ragione. Queste cose si fanno in posti riservati, no, così in cosa pubblica, intanto come lo trovi lì lo trovi da altre parti, quindi quello sono d'accordo con te. E allora poi insomma se si trova in un posto isolato, allora ha chiuso il caricatore. Beh, non si sa mai. No, ma io non volevo tutto, volevo solo uno, non volevo sparare tutto, volevo sparare solo uno, non tutto il caricatore. Adesso sono senza munizioni per la prossima volta. E allora? Preso dalla frenesia di sparare. E vabbè. Lascia arrivare, se no fa di biggio, questi cosi di... Questi cosi non... adesso noi ridiamo, scherziamo, però porca miseria, è un po' una cosa un po' triste, una cosa un po' triste, perché se uno arriva a fare una cosa del genere vuol dire che l'ha portato a farlo. Allora, diciamo che oggi come oggi sì, vuol dire che l'ha portato a farlo e poi ti becchi le conseguenze, sai già cosa succede, no? Certo. Quando la persona arriva a quei punti vuol dire che è proprio in stato di disperazione. O se no, non lo so, avranno le sue ragioni, avranno le sue opinioni e avranno anche adesso le... Ognuno se ne dovrà prendere le conseguenze. C'è un galassizzatore Necco. Vendo senza microfono, per info mandare messaggio su Messenger oppure su WhatsApp al numero 371-32-45-194. No, a Gianni che è appassionato di Saturnecco. A Gianni e a Franco che sono appassionati di Saturnecco. E allora? E vabbè. Guarda, la verità a me questo mi fa comodo perché ha la corrente diretta, e quando ci sono giornate così, giornate incerte, invece di usarmi quella, diciamo, quella nuova, mi uso questa qua, tanto mi è arrivata quella roba, mi è arrivato tutto, ne va bene così. Le radio? Sì. Mi è arrivato tutto. Scippato però fate bene, fatta bene. Cioè, ti ha preso un bel. Sappi sì. Gruppo di canto la giubagata. Vabbè, perché quando entrano in quei cosi lì, in quei posti lì, fanno pagare anche il minuto che ci lavorano. E vabbè, gli ho mandato il radio alimentatore, non mi ha fatto solo la radio, gli ho mandato il radio alimentatore. Solo l'alimentatore è costato 145 euro ripararlo, perché ha preso una brutta botta. Mi ha fatto proprio tutta la descrizione dei componenti che ha cambiato nell'alimentatore e nella radio. La radio aveva problemi di alimentazione lo stesso, capite? Niente problemi di coso, era solo alimentazione. Solo lo stadio di alimentazione che era fatti dei diodi, che però l'ha preso, ha dovuto rifare tutta, ha dovuto seguire tutta una catena e riallinearla. Allora è nuova, adesso è... mi ha detto guardi qua la radio, adesso è nuova, gli ho fatto guardi io non la prenda male però non manderò più niente, io se si rompe la vendo rotta, la regalo. Mi ha detto beh non ne vale più la pena, non ne vale più la pena riparare quelle radio perché con i prezzi che ci sono in giro uno la compra, ne compra un'altra sempre se è a posto, deve avere la sicurezza che sia a posto. Mi ha detto adesso quella sua se la vende è a posto. Ho detto ma siccome non la devo vendere, quindi rimane a casa. E allora solo vuol dire, e se lo dovessi vendere quanto devo vendere? Esatto. E quanto devi vendere? Almeno 300 euro devi vendere. Cioè 300 euro. Solo la radio 300 euro la devi vendere. Non la puoi vendere 250 euro. Perché ce ne sono voluti 2,70 per la radio, solo per la radio, senza contare le spedizioni. Sì, infatti, insomma, un casotto, perché vabbè, una volta che te la prendi, se, ora che insomma allineato quanto vuoi, la sabisì, già rimane a casa. No, ma infatti rimane a casa, no, la sarezza, mi ce l'avevo accesa e guai, è perfetta, no. Non va bene, va bene, ma è tornata nuova, gli ha fatto anche, gli ha controllato il VCO, gli ha controllato tutto, ha detto che è a posto e quindi non l'ha dovuto cambiare una cosa, un affare di commutazione, un relè di commutazione, perché l'ha danneggiato quello, ha danneggiato anche il relè di commutazione e nell'alimentatore ha cambiato tutti gli elettrolitici, perché io me li ho segnati, prima io ho fatto la foto, li ho segnati, gli ho fatto un segnetto, tutti li ha cambiati, originali, l'alimentatore è tornato originale, anche la ventola ha cambiato. Vedi, quando è così roba seria, non come era successo a me una volta, trovo raccontato per un cambio d'olio, cambio d'olio, certo la moralità la cambierai, tutto il ciclo che si fa normalmente alla macchina quando deve fare il tagliando, e questo qua io gli ho segnato il filtro del gasolio e l'olio, e il filtro dell'olio, vado, togli la macchina fuori, tocco quanto, mi pare troppo nido, cioè, che sciuzzo, guardo il filtro, lo tocco, no, perché l'ho toccato da sopra, ed era l'ho scritto io, tra l'altro, ti non è manco bugato. No, secondo chi trovi non ti fa nulla, già è un po' caro, già è caro questo qua, però è così, però è a posto. Io quando gli avevo mandato l'ICOM, lui mi aveva preso, erano 250 euro per cambiare i finali, gli sono bruciati i finali, dopo che mi aveva mandato la radio, era impeccabile, quella radio non ha mai più dato un problema, infatti l'ho data che... mi ha detto, caso terza radio è fatta bene, perché poi non si era mai più disallineata, non aveva mai più dato, l'unica cosa che aveva, che gli avevo fatto io, e le avevo cambiato una lampadina dello schermino, ma sì, a dopo di 3 anni una lampadinetta, però per la funzionalità era assurda. E di lì mi aveva fatto sia i finali e l'accordatore d'antenna, aveva riparato un pezzo, però era sempre a posto. Ti ricordi con quella radio quanto ci va forte? Sì, vabbè, boh. Io devo spostarmi, che stiamo mangiando una cosa, poi devo riuscire a prendere Gabriele che ne deve essere da Porto Torres, quindi ne approfitto e mangio una cosa veloce e vado. Vai tranquillo, già sono qua, non se vuoi entrare dopo ci sentiamo dopo, però qua perché ho quella, la PRM è spenta perché c'avevo un rumore e niente, sono qua. E già, a dopo allora, dai. Ciao, buona cena a te a QR. Grazie, ciao. Cosa va? È la portante difettosa? È la portante col difetto?